e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Non lo so, avranno pensato che fossimo scappate da questo studio, qualcuno, cosa dici, che non volevamo più tornare insieme? Non volevamo più stare insieme, invece no. Siamo la coppia più bella del mondo. Eh sì, anche perché ogni tanto un po' di distanza ci sta, no? Perché ravviva un po' l'amore, la reciprocità delle belle cose dell'amicizia. Allora, senti un po', io ho la borsa stamattina che è positiva. In realtà con le drammatiche notizie abbiamo cominciato ridendo, ma c'è poco da ridere. No. Questa mattina che arrivano da Manchester, ovviamente già qualcuno aveva pensato di monitorare se ci fosse un effetto sui mercati. Beh, ve lo dico, anche ai più cinici non c'è. Mercato, per fortuna, non guarda a tutto questo. Teniamo ben separate le due cose e abbiamo quindi un rialzo dopo il calo di ieri di Milano, che era determinato dalla distribuzione dei dividendi. Oggi Piazza Affari guadagna lo 0,5%, Londra più 0,24%. Per quello che riguarda invece i temi di approfondimento di questa mattina, io parlerò di, dal punto di vista dei denari, il lavoro agile e poi di una nuova guida del mondo dei notai italiani che hanno stilato il vademecum della legge dopo di noi. Ti ricordi, Nicoletta? Ne abbiamo già parlato. È un tema molto interessante, molto che importante, ci sta particolarmente, esatto, a cuore. Per le famiglie che naturalmente mettono a punto tutti quei piani di tutela per i propri cari nel caso in cui dovessero mancare improvvisamente. Non parliamo di testamenti, un tema molto più delicato, vi diremo tutti i dettagli dopo. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per intervenire in trasmissione, per sì, animare con le vostre domande, le vostre storie, la nostra puntata in cui torneremo a parlare di vaccini. Vi racconteremo di un'iniziativa che insieme alla SIP e alla FIMP, quindi ai pediatri, abbiamo pensato di mettervi a disposizione. E poi parleremo di intestino, a volte è irritabile, a volte è pigro. Il vostro come sta? Andiamo. Partiamo. Allora, come vi dicevo, primo tema di approfondimento di questa mattina, un tema che riguarda tutti perché parliamo ancora una volta di lavoro. Noi lo facciamo sempre con mille declinazioni. Questa mattina, come dire, la declinazione che abbiamo scelto è quella della flessibilità. Da ieri fino al 26 maggio Milano promuove il quarto appuntamento annuale che da giornata singola si trasforma in settimana del lavoro agile. È un'iniziativa che peraltro si ha visto come apripista Milano, ma che poi si è contagiato anche altre zone d'Italia. Sono chiamati all'appello aziende, enti pubblici, centri di ricerca, associazioni, studi professionali e sindacati. Si può aderire a questa campagna in molti modi, sperimentando in primo luogo il lavoro agile all'interno della propria azienda o del proprio ente, proponendosi come mentor, cioè portando un'esperienza di lavoro agile, come mentee interessato ad approfondire il tema del lavoro agile, organizzando eventi, momenti di riflessione. È un tema molto caldo in questo momento, molte aziende sono partite con il lavoro agile al loro interno, qualcuna sta ancora sperimentando, lo sta facendo soprattutto il mondo della piccola e media impresa, che è quello un pochino più in difficoltà ad attuare i nuovi principi, ma in ogni caso abbiamo anche una legge in Italia. Buongiorno al professor Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovate. Professore, ci è capitato più volte di parlare di lavoro agile da questi microfoni, grazie anche alla sua collaborazione. Negli ultimi anni l'attenzione su questo tema è cresciuta notevolmente, sono arrivati anche i primi passi per regolare questa pratica. Torniamo a dare una definizione di lavoro agile, perché c'è sempre il rischio di fare un po' di confusione. Cosa si intende esattamente con questa nuova, come dire, concezione della flessibilità del lavoro? Bene, allora, nell'essenza il lavoro agile, noi preferiamo chiamarlo smart working, è un modello di organizzazione del lavoro in cui al lavoratore viene restituita flessibilità, viene restituita autonomia nello scegliere dove lavorare, in che orari e in certa misura con che strumenti, e in cambio gli si chiede un maggiore impegno a raggiungere i risultati. Quindi è davvero una rivoluzione in molti contesti, che libera le energie dei lavoratori, la loro imprenditorialità, la loro creatività. Oggi c'è un'inchiesta sul Corriere della Sera che elabora proprio una fotografia molto dettagliata su tutte quelle aziende che sono partite da tempo con il lavoro smart e quindi c'è un resoconto praticamente delle cosiddette best practice in tutta Italia. Ma professor Corso, quali sono i vantaggi del lavoro agile? In quali casi è consigliato e praticabile? In quali invece secondo lei meno realizzabile questo modello? Guardi, i risultati di questi anni dicono che è applicabile in prospettiva, io li direi in tutti i lavori, ovviamente con modalità diverse. Oggi lei pensi, e i dati che abbiamo anche diffuso come osservatorio lo confermano, una grande azienda su tre sta scoprendo grandi benefici in termini di produttività. Pensi che si parla anche di miglioramenti della produttività del 15-20% grazie all'applicazione dello smart working, riduzioni ad esempio dei costi legati alle sedi fino al 40-50%, ma quello che è veramente importante, che è il motore della diffusione, è il beneficio sulle persone. Cioè le persone, oggi ci sono oltre 250.000 persone a cui grazie allo smart working è stato restituito tempo, entusiasmo, voglia di esprimere meglio, certo, la propria professionalità. Quali sono le formule più diffuse? Perché noi immaginiamo che si possa concretizzare nel, per esempio, lavorare da casa un giorno a settimana, due giorni a settimana, tre o quattro giorni al mese. Esistono degli standard, professor Corso, oppure ogni lavoratore tratta singolarmente ed individualmente con l'azienda? Allora, esistono, chiamiamoli standard, anche se parlando di smart working è un po' contraddittorio. Un po' di cornicetta sì, di riferimento deve esserci, giustamente. Sì, soprattutto per introdurre queste logiche. Allora, si parte molto spesso andando a modificare quelle che sono le regole per quanto riguarda la sede di lavoro, consentendo ai lavoratori di lavorare uno o due giorni alla settimana da casa. Non da casa, ma da dove si ritiene, esatto, più opportuno. E nell'orario che si ritiene più opportuno, perché magari, certo, durante la giornata una mamma, un papà vogliono organizzare al meglio la propria vita familiare e poi concentrano tutti gli impegni di lavoro. La risposta alle 200 mail arretrate la sera dalle 9 alle 11, no? Non è detto che si debba, certo, lavorare nell'orario consueto di lavoro. Sì, fatte salvo ovviamente, dipende molto dalle attività e dal tipo di compiti che si devono svolgere, e quindi fatti salvo quelle che sono le necessità di collaborazione, di servizio da rendere ai clienti, uno deve avere la possibilità anche in termini di orari di lavoro di organizzare al meglio le proprie attività, e quindi le persone riescono a scoprire anche degli spazi di produttività, di efficacia incredibili, anche tenendo conto di quelle che sono le proprie, certo, le proprie caratteristiche, le proprie esigenze, anche i propri bioritmi. Il lavoro agile dal 10 maggio, dopo il via libera finale del Senato, ha questa nuova normativa nazionale, anche se, come dicevamo, è già una realtà presente nel nostro paese. Il Sole 24 Ore ha pubblicato anche l'identikit del lavoratore smart, che è un uomo. Tipicamente nel 69% dei casi ha un'età media di circa 41 anni e risiede al nord. Anche questo è un aspetto singolare, professor Corso, perché le associo a questa riflessione anche il commento che ha rilasciato ieri il presidente dell'INPS Boeri, che è intervenuto a Milano, dove c'era il ministro Madia, e si è parlato nella giornata del lavoro agile, appunto milanese, anche dello smart working nella pubblica amministrazione. Boeri ha sottolineato che un quinto delle donne che diventano mamme poi non rientra sul posto di lavoro. Lo smart working è questione, dunque, da questo punto di vista prettamente femminile, ma lo utilizzano molto gli uomini. Questa è l'ultima domanda per lei: come dobbiamo leggere questa tendenza, che ci sembra un po' contrapposta, curiosa? Allora, lo smart working è per tutti, quindi non deve avere un genere. Sicuramente lo smart working però deve consentire di liberare talenti anche di quelle persone, in molti casi donne, che hanno degli impegni, delle necessità importanti dal punto di vista della vita privata. Lo smart working, e lo abbiamo anche misurato, consente ad esempio di ridurre l'assenteismo, di ridurre la malattia, di facilitare il rientro dalla maternità. Pensi che lo smart working ad esempio riduce anche il ricorso al part time, perché se io do maggiori, certo, flessibilità, è una donna con talento può rimanere, può mantenere le responsabilità e sviluppare al meglio quella che è la propria leadership. Insomma, è un cambiamento molto importante in corso, una rivoluzione ormai non più tanto silenziosa dalla quale dobbiamo prendere atto. Professor Corso, la ringrazio intanto per la sua presenza di questa mattina, aspettiamo presto in studio, buona giornata. Buongiorno. Bene, grazie. A presto. Andiamo al traffico velocemente, tra poco. Cuore e denari. E noi torniamo a parlare di vaccini. Il decreto legge che rende la vaccinazione obbligatoria prevede che a partire dal prossimo settembre, per l'iscrizione ad asili, nido, scuole materne, ovvero nella fascia da 0 a 6 anni, i bambini siano vaccinati. Poi, come abbiamo sentito, l'obbligo riguarderà, anche se con modalità diverse, anche elementari, scuole medie, primi due anni delle superiori, insomma fino ai 16 anni dei nostri ragazzi. Il tema è di grande attualità, dubbi, domande, perplessità, timori, ma anche interrogativi sul cosa fare, a chi rivolgersi per farsi trovare pronti. Ieri abbiamo letto alcune domande prese sui social frequentati dai genitori e siamo stati letteralmente travolti da una marea di richieste, di casi particolari, di SOS, di genitori un po' preoccupati all'idea di aver perso il certificato. Allora abbiamo pensato di aprire uno sportello per tutta questa settimana dalle 10 alle 17 sulla nostra pagina. Lo abbiamo chiamato un pediatra per amico e i nostri amici pediatri sono i pediatri della FIMP e della SIP che ci accompagneranno ogni giorno rispondendo alle vostre domande in diretta e sulle nostre pagine. Allora diamo il benvenuto al professor Alberto Villani, che ringraziamo, presidente della Società Italiana di Pediatria e responsabile di pediatria generale malattie infettive all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora professore, tra le varie domande arrivate ieri ne abbiamo selezionato una di Giada 73 che ci chiede: prima le obbligatorie erano solo 4, adesso diventano 12, ma non saranno troppe? Sono davvero tutte necessarie? Allora, tutte le vaccinazioni sono necessarie ed erano già comprese queste 12 nel cosiddetto calendario vaccinale per la vita, che è già di fatto attuato attraverso i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Le vaccinazioni moderne sono fatte in maniera tale che riescono a far sì che l'individuo, l'organismo risponda con una risposta immunitaria ad hoc, quindi appropriata per quelle malattie, e quindi sono estremamente selettive. In poche parole, per fare un esempio, un raffreddore determina nell'organismo una risposta immunitaria che è migliaia di volte superiore a fare tutti i vaccini disponibili tutti insieme, quindi non c'è nessun problema di troppi vaccini. Allora, abbiamo risposto alla domanda di Giada. Naturalmente spazio aperto alle vostre domande sulle pagine di Cuore Denari. I pediatri della Società Italiana di Pediatria, della Federazione Italiana Medici Pediatri, sono a vostra disposizione. Noi domani torneremo in diretta su questo tema. Intanto ringrazio il professor Villani per essere stato con noi. Grazie molte a voi, perché l'informazione corretta è quella di cui c'è bisogno. Io credo che i genitori, una volta che hanno informazioni corrette, saranno veramente entusiasti dell'opportunità di godere di quello che è un privilegio, un diritto, anche se si parla di obbligo vaccinale, ma è un privilegio e un diritto. Allora, per gli ascoltatori che ci stanno già scrivendo, vi invitiamo ad andare su Facebook, i pediatri sono a vostra disposizione. Grazie professor Villani. A proposito di domande, un altro argomento, Deborah, sempre caldo, direi che sempre verde, è l'ipertensione. Perché ogni volta che ne parliamo, che la nominiamo, i nostri centralini fumano, anche se è vietato. Insomma, tra i vostri desiderata, quello ad esempio di conoscere gli alimenti da privilegiare per tenere la pressione sotto controllo, è sicuramente anche qui questa una richiesta da sempre, che fate sempre. E allora noi, che vogliamo sempre avere anche un filo diretto con voi, abbiamo pensato di girare la domanda a un nostro esperto, certo, che ci piace molto, il dottor Luca Avoledo, naturopata. Buongiorno, bentornato dottor Avoledo, eccola qua. Buongiorno, ben ritrovati. Allora dottor Avoledo, rapidamente tre indicazioni che ci aiutano a tenere sotto controllo la nostra pressione senza ovviamente dimenticare le indicazioni del medico curante. Assolutamente, che nessuno butti via i farmaci per ricorrere ai rimedi naturali, però ci sono molte situazioni di preipertensione, di quando la situazione è ancora lieve e gestibile, in cui l'attenzione alimentare è fondamentale. Un consiglio che do a tutti è quello di utilizzare una bevanda che si usava molto tempo fa, adesso un po' meno, che è il Carcadè. Qualche anno fa era più noto, adesso è stato scalzato da altre bevande salutistiche come il tè verde, ma il Carcadè, cioè il tè di ipisco, è una bevanda che si può assumere molto gradevole, anche due o tre volte al giorno, due o tre tazze al giorno, e sta dimostrando, da un punto di vista scientifico, delle evidenze molto chiare sulla capacità di ridurre sia la minima che la massima di anche una decina di punti di pressione. Quindi un'abitudine molto sana, tranquilla, facile, che può essere adottata da tutti e contribuisce ad abbassare, a regolarizzare la pressione arteriosa. Questo ci piace, naturalmente sarà una delle notizie molto cliccate, perché quando arriva il dottor Avoledo i click si sprecano. Dottor Avoledo, tra l'altro, a proposito di alimentazione, noi l'aspettiamo qui in studio per parlare insieme a lei del suo primo libro, che è uscito qualche giorno fa, edito da Sperling, si intitola No Vegan. Allora, un titolo abbastanza coraggioso, ma come diciamo sempre, non fermiamoci subito solamente alle apparenze. Apriamo il libro, acquistiamolo, compriamolo e leggiamolo. È un libro che nel sottotitolo dice La verità scientifica oltre le mode. Prima di diventare vegani, leggete questo libro. A chi l'ha dedicato, dottor Avoledo? Che bella presentazione, molto giusta, a tutti coloro che vogliono capire come stanno veramente le cose. Non è un libro, a dispetto del titolo che sembra duro, contro i vegani, che hanno tutto il diritto di mangiare come preferiscono. È un libro che però vuole fare chiarezza su alcuni falsi miti, alcuni luoghi comuni che circolano sul rifiuto della carne, sull'alimentazione interamente vegetale. E questo libro, che è un libro molto scientifico, ma scritto in maniera anche accessibile, è dedicato a tutti quelli che vogliono approfondire l'argomento e magari si stanno anche chiedendo se devono diventare vegani o no. Magari questo libro può essere utile. Infatti leggo, se avete appunto nella copertina, se avete sentito che mangiare veg salva dal cancro, leggete questo libro. Se volete dimagrire, un'amica vi ha consigliato di consumare solo vegetali, o se state pensando di far diventare vegana tutta la famiglia, compresi i vostri bambini, leggete questo libro. Tutto raccontato e spiegato, come dottor Avoledo lei ha ben specificato, con un linguaggio molto accessibile ma fondato su delle prove, quindi su dati di ricerche, e soprattutto io lo sto leggendo e quindi l'aspettiamo qui, naturalmente invitando anche una controparte, perché ci piace anche mettere così, animare un po' il confronto, ma soprattutto perché lei fa chiarezza riguardo a una serie di luoghi comuni, di false certezze, di leggende metropolitane che rimbalzano in rete. Noi è un problema che riguarda anche i vaccini, di cui abbiamo parlato di cui parleremo fino a venerdì. Quindi, dottor Avoledo, l'aspettiamo prestissimo. Intanto mi chiedono già il titolo del libro: Luca Avoledo, No Vegan, la verità scientifica oltre le mode, Sperling & Kupfer editore. Dottor Avoledo, voilà, buona Grazie. Giornata. A presto, noi andiamo al giornale radio, ma torniamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. upmcchianciano.it. Cuore e denari. Davide è un bambino di 9 anni con una disabilità motoria. La mia preoccupazione è se dovesse succedermi qualcosa o in un futuro, quando non ci sarò più, chi può occuparsi di Davide e dei suoi sogni? Con la legge sul dopo di noi le cose sono cambiate. Grazie a questa legge, insieme al notaio, posso costruire un percorso di vita per Davide che andrà avanti anche dopo di me. Il nostro motto è si può fare, insieme si può fare. Nicoletta, questo è proprio il nostro tema, un tema cuore e denari, che ne dici? Ci piace molto. Abbiamo scelto bene questa mattina. Qualche cifra per partire. Il fenomeno della disabilità in Italia riguarda oltre 3 milioni di individui, 3 milioni e 200 mila. 2 milioni e mezzo sono anziani. Più alta la quota fra le donne, circa il 70%, contro il 30% degli uomini. 1 milione e 800 mila persone sono disabili gravi, 540 mila hanno meno di 65 anni, circa la metà dei disabili gravi con meno di 65 anni grava completamente sui familiari conviventi, e queste sono le cifre che prendiamo a riferimento questa mattina per sviluppare l'approfondimento di oggi. È stata presentata proprio pochi giorni fa a Roma la 14ª guida per il cittadino dedicata a Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali. Una nuova guida realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato con 13 associazioni dei consumatori. Quali sono i contenuti di questa guida, ma soprattutto quali sono i contenuti di questa norma che spesso è oggetto di approfondimento nelle nostre trasmissioni, dobbiamo ricordarlo, ne parla molto spesso anche il nostro Gianluca Nicoletti, ne ha fatto una grande battaglia, coadiuvato anche dal mondo legale italiano, e con noi questa mattina però per parlarci di questo nuovo invece strumento di informazione di cui si è fatto carico il Consiglio Nazionale del Notariato, il notaio Pierluisa Cabiddu, consigliere nazionale del notariato. Buongiorno notaio Cabiddu e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Sono sempre un po' indecisa se declinarlo al maschile o al femminile, appunto notaia non mi piace tanto, noi non siamo tanto per questa battaglia anche di genere. Anche avvocato, cosa dici? Avvocata, secondo me il più brutto è la ministra, però detto questo non vogliamo sollevare un tema diverso da quello di questa mattina. Allora intanto naturalmente c'è sempre l'invito rivolto ai nostri ascoltatori che possono intervenire all'800 24 00 24. Cosa succederà dopo di noi? Siete anche voi fra le decine di migliaia di italiani che si pongono questa domanda pensando ad un familiare disabile a proprio carico. Conoscete oppure da vicino questa esperienza? Raccontateci se vi siete già informati sugli strumenti giuridici a vostra disposizione per assicurare un sostegno che è chiaramente di natura economica fondamentalmente a queste persone. Avete dei dubbi? Noi aspettiamo le vostre domande, che ci potete rivolgere anche al 349 238 6666, o con l'SMS o attraverso WhatsApp. Notaio Cabiddu, mercoledì scorso avete presentato questa guida per il cittadino intitolata proprio Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali. Con quali obiettivi è nata questa iniziativa? Quali informazioni troviamo in questa pubblicazione? L'obiettivo, come quello di tutte le guide per il cittadino redatte dal Consiglio Nazionale del Notariato Italiano e dalle associazioni di consumatori, è quello di informare i cittadini su argomenti importanti, e questa 14ª guida vuole spiegare gli strumenti che sono stati predisposti a tutela delle fragilità sociali a partire dalla legge sul Dopo di noi. E proprio con riferimento a quest'ultima legge che è entrata in vigore il 25 giugno dello scorso anno, il legislatore ha approntato degli strumenti pubblici e privati per favorire la piena inclusione sociale, il benessere, l'assistenza e la cura del disabile grave. Disabile grave secondo la definizione che ne dà la legge 104 del 92. E proprio su questi strumenti privati si concentra l'attenzione del notaio, perché il legislatore per questi strumenti, che consistono in trust, in vincoli di destinazione e in fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS che operano nel settore della beneficenza, ha previsto importanti sgravi fiscali, purché per poter godere di questi sgravi fiscali è necessario che vengano redatti con atto pubblico notarile. Certo. Notaio, prima di entrare nel merito appunto della legge, ma prima non esisteva nulla di tutto questo, che cosa facevano le famiglie preoccupate del futuro di un disabile grave di cui si prendevano cura, ovviamente? Certo, prima c'erano altri strumenti che ci sono tutt'oggi, donazioni con onere o testamenti, che comunque sono tutti strumenti che possono essere adottati anche adesso, contratti di mantenimento e altro. Solo che la novità di questa legge sono le agevolazioni fiscali importanti che sono state predisposte. Non solo, ma anche gli strumenti che ha individuato il legislatore sono stati regolamentati in modo tale da garantire per quanto possibile che il fine, che è quello dell'assistenza, del benessere, della protezione dell'incapace, sia realizzato. E questo perché è possibile, grazie a questi strumenti, realizzare un vero e proprio programma di vita del disabile, e che infonde molta fiducia, perché il programma di vita, tenendo sempre conto delle risorse che vengono destinate, consiste nel poter includere qualsiasi tipo di obbligo a carico del gestore, come che riguarda la quotidianità, quindi stabilire che il disabile debba abitare nella casa, certo, di vita, residenza familiare, debba fare attività sportive o quant'altro, nell'ambito naturalmente della risoluzione di complesse problematiche giuridiche che si inseriscono. Perché questi strumenti in che cosa consistono? Consistono nel destinare dei beni, basta anche un solo bene, alla proprio soddisfacimento delle necessità e dei bisogni del disabile grave. Andiamo a qualche esempio, notaio, la blocco. Allora, sì, ci è piaciuto intanto molto questo principio della realizzazione di un programma di vita del disabile grave. Qui non si parla solamente di aspetti di natura economica che sono destinati al appunto al sostegno di queste persone quando la famiglia non ci sarà più, ma è qualcosa di molto più ampio, complesso, articolato e delicato. Andiamo, appunto, dicevo, all'esempio: nel caso in cui la famiglia decida di costituire un trust, no? Esatto. Ecco, che cos'è questo strumento e in che cosa si esplicita il beneficio fiscale introdotto appunto dalla legge del dopo di noi? Il trust è un termine, significa fiducia, è un istituto giuridico di origine anglosassone con il quale un soggetto che si chiama disponente e proprietario di un bene, normalmente un familiare ma può essere anche un parente o anche un terzo estraneo, separa uno o più beni dal suo patrimonio, li trasferisce a un altro soggetto affinché, che si chiama trustee, affinché li gestisca e li amministri nell'interesse del disabile grave, e quindi al fine di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni. E quindi questi beni vengono destinati a questo scopo, quindi non entrano a far parte del patrimonio del trustee, quindi non possono neanche essere crediti dei suoi creditori, perché hanno proprio un vincolo di destinazione, e questo è importante. E le agevolazioni fiscali quali sono? Le agevolazioni fiscali, abbiamo l'esenzione dall'imposta di successione, di donazione e dall'imposta che in genere è bella pesante, e sì, quindi insomma, perché dipende anche dal grado di parentela, certo, quindi se, esatto, può essere anche molto gravosa. E poi abbiamo le imposte di registro, ipotecarie e catastali, misura fissa 200 euro per ogni imposta, quindi sono delle agevolazioni fiscali importanti. E poi voglio precisare come questo istituto, così come anche gli altri che sono stati previsti con questa normativa, sono molto duttili, quindi si adattano facilmente alle esigenze che la famiglia intende soddisfare, e queste esigenze spesso vanno a scontrarsi con problematiche giuridiche. L'esempio tipico è quello della famiglia dove ci sono tre figli, dei quali uno disabile, uno solo magari si può occupare del fratello, e i genitori vorrebbero che questo bene destinato durante la vita del disabile al soddisfacimento dei suoi bisogni poi magari vada al fratello che si è occupato di questa cura del fratello disabile. E lì ci scontriamo dinanzi a problematiche di natura giuridica, perché ci sono dei diritti intangibili, dei legittimi bisogni, ci sono tutta una serie di problematiche, e lì il ruolo del notaio è veramente importante. Certo. Adesso ne parliamo, ma mi chiedo, notaio, ecco, questa legge ha semplificato un po' la vita di queste famiglie? Guardano con un po' più di serenità, se è possibile parlare di serenità, per quelle famiglie che hanno queste problematiche sulle spalle, che spesso minano pesantemente la serenità di tutto il nucleo familiare, oppure no? Insomma, cosa è successo anche nella vostra esperienza quotidiana di divulgatori anche di questa novità? Sì. Perché voi vi siete anche responsabilmente incaricati di questo percorso, notaio. Sì, siamo responsabilmente incaricati perché il notaio è chiamato in prima linea. Sì, io infonderei fiducia, perché questi strumenti, gestiti nella maniera più idonea, adattandoli al caso concreto e quindi con l'importante guida del notaio, sia per quel che riguarda la risoluzione delle problematiche giuridiche, sia per quel che riguarda questo percorso di vita che va costruito con riferimento proprio alla quotidianità, il ruolo del notaio è molto importante, e si può veramente dare speranza, perché le soluzioni che si possono trovare sono veramente tante, e ripeto, sono strumenti molto duttili che si possono adattare al caso certo. concreto. Notaio Cabiddo, allora quando parliamo di trust, a noi ci è capitato di farlo in contesti diversi rispetto a quello di questa mattina, ma ne abbiamo parlato in passato immaginando di trasferire delle somme di denaro per degli eredi, accantonare delle patrimoni. Diciamo che nell'immaginario collettivo c'è l'idea che questo istituto serva solamente a gestire delle situazioni di famiglie particolarmente benestanti. E le dico già, Nicoletta lo notava su WhatsApp, che sono proprio queste le prime, tra virgolette, contestazioni un po' che arrivano dai nostri ascoltatori. C'è un ascoltatore che ci scrive: vorrei ricordare che la maggioranza delle famiglie con persone disabili in casa o a carico è mediamente povera. Il trust è l'ultimo dei problemi. Questa legge, no, dice, sembra fatta apposta per persone molto benestanti, è così? No, direi assolutamente di no. Questo è assolutamente un convincimento da sfatare, perché il trust, così come gli altri istituti di destinazione e contratti fiduciari, possono anche essere realizzati anche quando si ha un solo bene, anche la sola casa adibita a residenza familiare, si vuole destinare quella alle necessità del disabile, assolutamente no. Certo. Ripeto, è un istituto molto duttile che ha tantissimi risvolti e si presta assolutamente alla risoluzione di tante problematiche. Voglio proprio sfatare questo convincimento. Detto questo, poi il trust non è l'unica soluzione offerta dalla legge. Esatto, perché ci sono anche i vincoli di destinazione, ci sono anche i fondi con contratto di affidamento fiduciario e poi l'esenzione e le agevolazioni fiscali danno un contributo molto importante a rendere questo istituto veramente accessibile a tutti. 800 24 00 24, intanto il numero verde per i vostri interventi in diretta. Inaugura Luciano da Parma, che salutiamo. Buongiorno Luciano, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Senta, forse in parte la domanda è stata già anche fatta, ma ero in linea col vostro e quindi forse mi è anche sfuggita la non cosa. Non si preoccupi, ripetiamo. Grazie. Dunque, quindi io e mia moglie ci stiamo occupando di una signora anziana, non abbiamo rapporti di parentela, non abbiamo niente, però essendo sola diciamo che ci occupiamo di lei da quasi un paio d'anni, però abbiamo sempre un po' timore a questa persona avendo un fratello, perché lei ci ha fatto diciamo un testamento olografo dove ha già deciso che siamo, ha già indicato come beneficiari insomma di un'eventuale eredità, siamo dei universali, come sì, si chiama, eredi universali, sì. Ecco, però avendo un fratello non vorremmo che un domani, beh, certo, potesse impugnare, ecco, perché effettivamente i soldi che stanno uscendo sono tanti, perché ha bisogno di una badante oltre a noi, siamo in tre praticamente. Che Luciano, però noi stiamo parlando di una persona anziana, non di un, sì, disabile grave, insomma, è però una persona abbastanza... che non è vincolata a voi da nessun legame di parentela. No. Come vi siete scelti reciprocamente? Magari allora, lei era l'amica di mio papà che adesso è deceduto, quindi non ci siamo sentiti poi quando è morto mio papà. Era la compagna, la compagna del suo papà. La compagna, l'ex compagna. Grazie Luciano. No, era per capire, senza ovviamente indagare con poco rispetto nella sua situazione, tanto magari se servisse anche questo elemento al notaio Cabiddo. Notaio, allora cosa ci dice di questo caso? Allora, di questo caso dico innanzitutto non riguarda la legge sul dopo di noi, infatti, perché la legge sul dopo di noi esclude proprio le patologie legate alle persone, le persone anziane, le patologie legate alla senilità che possono creare una menomazione fisica o psichica, quindi siamo proprio fuori dall'ambito della legge. E poi con riferimento al caso specifico del signore, benché non rientri nell'argomento in discorso, posso dirgli che essendo una sorella non ci sono legittimari, perché legittimari che hanno diritto a una quota intangibile di legittima sono solo coniuge e figlio, mancanza di figli e genitori. Posso dirgli che la donazione e questi strumenti sono strumenti ordinari, per certo, cui insomma, se anche il testamento olografo, se contiene i requisiti di validità, va bene. Rientriamo nel dopo di noi, però. Vediamo nel dopo di noi. Con Teresa da Udine, che invece è sorella di una disabile che vive in una struttura. Teresa, giusto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'intervento. Ecco, io volevo chiedere alla notaio, io ho mio fratello che ha la sindrome di Down e vive in una residenza per disabili. Nel momento i genitori ormai non ci sono più e volevo sapere, nel caso io un domani dovessi mancare o ci siano dei problemi. Lei è il tipico caso, Teresa, del quale parliamo questa mattina. È preoccupato ovviamente di chi si prenderà cura di suo fratello pur vivendo attualmente in una struttura, ma qualcuno dovrà evidentemente pagarla. Adesso se ne incarica lei e le dice che lo farà. Grazie Teresa. Lui paga adesso, diciamo, con la sua pensione. Certo. Riusciamo a sostenere, però li gestisce, diciamo, lei, con certo. La sua pensione. Grazie Teresa. Avvocato, notaio Cabiddo, un minuto e mezzo di tempo, chi deve disporre che cosa a favore del fratello di Teresa? Esatto, la signora in questo caso deve stabilire cosa vuole destinare per l'assistenza e per il soddisfacimento dei bisogni del fratello per il periodo in cui lei non ci sarà più. Può far ricorso ad uno di questi istituti, potrà quindi trust, vincolo di destinazione e fondi, destinerà dei beni, nominerà una persona che li gestisce, qualcuno che li controlla, e naturalmente persone di fiducia che possono essere anche le stesse associazioni non profit che si occupano della dove adesso è ricoverato il fratello, e sulla base di questa struttura potrà poi destinare dei beni al fine di poter provvedere, anche quando lei non ci sarà più, alla cura e assistenza e protezione del fratello. Voglio precisare a proposito di questi strumenti, per quel che riguarda gli strumenti pubblici, che la legge è volta proprio alla deistituzionalizzazione, cioè a favorire che i disabili gravi possano essere non ricoverati negli istituti, ma possano abitare in abitazioni che riproducono il più possibile la casa familiare. Certo. E quindi insomma, si può eventualmente anche pensare a queste soluzioni. Voglio dire che la guida può essere scaricata. Brava, il notariato, lì volevamo arrivare. Che il 26, anche delle associazioni dei consumatori, il 27 maggio c'è un importantissimo open day in tutta Italia. 60 città italiane coinvolte. Aperti al pubblico, si parlerà delle fragilità sociali, si spiegheranno questi strumenti. C'è un hashtag molto importante, si può fare, perché veramente con questa legge ci sono tante speranze e insieme al notaio si può fare. Allora lo ribadisco, per chi volesse scaricare gratuitamente questa guida può andare sul sito del notariato www.notariato.it, ma anche sui siti delle 18 associazioni dei consumatori coinvolte, praticamente 13. Tutte, mandate prima sul sito del notariato, naturalmente non me ne vogliano le associazioni dei consumatori, ma visto che il notaio abbiamo avuto questa mattina e l'hanno scritta loro, giustamente si può andare lì. Potete anche scriverci, perché il notaio Cabiddu, come tutti gli altri notai dell'associazione, ci aiutano tantissimo a rispondere alle vostre domande in privato. Sono casi tutti diversi tra di loro e quindi meritano una risposta particolareggiata e personalizzata. Notaio Cabiddu, grazie per essere stata con noi. Grazie, ci sarebbero state tante altre cose da dire, ma noi la richiameremo al più presto, naturalmente. Benissimo. Perché è un tema che ci sta molto a cuore. Piacere. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Adesso rapidamente, Nicoletta, l'ultimo adempimento che mi tocca è quello della borsa, poi ti ridò la linea perché non vedo l'ora di sentir parlare del tuo argomento, perché a noi donne interessa tanto. Anche agli uomini. Lo vuoi introdurre nella modalità che anticipavi prima? Lo facciamo? Allora, noi parleremo di intestino. Abbiamo sdoganato tutte le questioni, perché questo soprattutto con Andrea Salogna. Questa è super democratica, quella allora, di stamattina. Salutiamo allora, anche la nostra intanto, amica. Brava. Tutte donne oggi, che bello. Belle, potete, abbiamo la diretta Facebook. Sì. Oh, ecco, siamo in diretta Facebook e quindi scatenatevi, iniziate a scrivere. Abbiamo con noi la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, finalmente, a voi. Eccola qua. Sì, fisicamente. Allora, fisicamente. abbiamo anticipato, avremo parlato di intestino pigro. Intanto cercheremo di capire quando possiamo dire che il nostro intestino è pigro, perché a volte lo definiamo così, ma in realtà è uno che è un intestino che funziona a modo suo, ma pigro non è. Ma la domanda che vogliamo farvi è che, dato che lì andremo a parare, ta-tan! È: quanto tempo restate in bagno seduti sul water nell'attesa? Quanto tempo passate su quello che è universalmente riconosciuto come il pensatoio? Attenzione, perché intanto che i pensieri volano, andiamo ai mercati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... UPMC Chianciano Terme è cura e prevenzione. UPMCchianciano.it. Cuore e denari. Eccoci qua. Allora, la domanda è... Come sta andando la seduta? Come sta andando la seduta? Non di va bene. E abbiamo parlato di... parleremo del pensatoio. No. Quanto sì. tempo ci passiamo e ci dà soddisfazione? 800-24-0024. Parliamo infatti di intestino. Un tipo a volte dal carattere difficile, umorale, permaloso, irritabile e alle volte anche un po' pigro. Ma dato che a me e a Debora piacciono le sfide impegnative... Sì, siamo molto concrete. Brava. Allora oggi proveremo a convincere il nostro intestino, con le buone, a essere docile e collaborativo. Non siate pigri, ma chiamateci all'800-24-0024, almeno voi non siate pigri. Ci aiuta, come abbiamo anticipato, una grande esperta, una grande amica di Cuore Denari, Beatrice Salvioli, gastroenterologa all'Humanitas. Buongiorno, dottoressa Salvioli. Buongiorno a voi. Allora... sul pensatoio torneremo perché lei ha delle cose da dire. Sì. Dei diktat. Ecco, e così mettiamo anche, così accontentiamo anche il nostro ascoltatore che ci dice che gli diciamo cosa comprare, cosa mangiare, cosa leggere, cosa investire, come curarsi e vabbè, non sappiamo. Comunque, allora, iniziamo a raccontare cosa fa il nostro intestino quando sta bene, di buon umore, insomma, in piena forma. Quando sta bene in realtà è molto discreto perché non si fa sentire, quindi non si sentono rumori, praticamente noi non lo avvertiamo neanche, svolge le funzioni normalmente, possono essere quotidiane, possono essere più volte al giorno, possono essere anche una volta ogni 3 giorni, però non si lamenta, quindi non si gonfia, è piatto. Non si sente. Quindi quando noi iniziamo a pensare al nostro intestino, in realtà è lui che ci chiama. È lui che ci chiama. Perché è subdolone questo intestino, esatto. È un cervellone un po' infingardo. Allora, se dottoressa invece inizia ad avere dei problemi e andiamo subito al tema, è pigro, come si comporta? Intanto possiamo dare una definizione di intestino pigro, perché magari pensiamo che il nostro intestino lo sia, invece tutto sommato è uno che ha i suoi tempi. Sì, in effetti una volta erano i medici che stabilivano quando l'intestino dei pazienti fosse pigro, ovvero c'erano dei criteri e ci sono tuttora dei criteri internazionali in cui si definisce questo tipo di disturbo. È chiaro che invece si è visto che alla fine le persone si lamentano anche se l'intestino è regolare. Regolare intendo quotidianamente, per cui non è tanto il criterio della frequenza, ma è come si sente la persona. Se la persona non si sente soddisfatta perché va al mattino, poi dopo mezz'ora deve ritornare perché non si sente svuotata completamente e poi durante il giorno ancora un altro stimolo che deve seguire. Per cui è una vita legata molto alla toilette e questo lo rende insoddisfatto. Ma una volta si pensa, beh, se va tutti i giorni che problema c'ha, signora? Perché qui sono prevalentemente le donne. Che problema c'ha? Invece il problema è soggettivo. Per cui diciamo che i criteri da oggettivi si sono trasformati in soggettivi. Noi guardiamo molto di più la qualità di vita di queste persone. Quindi la domanda, noi abbiamo scherzato sul pensatoio, ma non abbiamo scherzato tanto perché ci sono delle indicazioni. Noi abbiamo, abbiamo poca cultura su questo aspetto, ci facciamo guidare un pochino da quelle che sono le indicazioni magari che ci hanno dato le nostre mamme, ma in realtà poi alla fine abbiamo visto che non sempre sono adeguate e corrette. No, ma perché... E poi a nostra volta le insegniamo ai nostri bambini. Esatto. Parleremo anche di bambini e di intestino pigro, perché per aiutare i nostri bambini ad avere una buona relazione con il loro intestino e con la loro cacca, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Ecco, perché questo è fondamentale. Ci sono delle persone che girano intorno ai problemi del loro intestino, diventa quasi una sorta di ossessione, si sentono la pancia dura, si sentono la pancia gonfia, non mangiano alcune cose con il timore che poi l'intestino borbotti. Ecco, forse bisogna arrivare a monte per... No, arrivare sì, un po' educare, alle cause di tutto diciamo questo. Diciamo che una volta si faceva molto meglio, una volta non c'erano le facilitazioni delle toilette, si andava in aria aperta si assumeva quella posizione, come nel bagno alla turca, che è la posizione in realtà più fisiologica, quindi più corretta per andare di corpo. E di certo lì non stavano due ore a pensare. Poi, come dopo, ci scrive Stefano, un ragazzo di 24 anni, che ci scrive che se non ha impegni, lui si mette il cellulare alla mano, bello tranquillo, un paio di ore non sul pensatoio, non gliele leva nessuno, se non ha nulla, se non ha impegni. Quindi ci auguriamo che sia molto impegnata la vita di Stefano. Perché che cosa succede, dottoressa Salvioli? Il problema è proprio una questione di gravità. Più a lungo sta in quella posizione, più la forza di gravità spinge sul pavimento pelvico, per cui alla lunga noi avremo dei problemi che vanno dalle emorroidi, che anche questo si può dire, giusto? Certo. Perché comunque tantissime persone ne soffrono, ai prolassi, quindi cadute vere e proprie di alcune parti anatomiche del pavimento pelvico. Quindi è estremamente importante che si educhi fin da piccoli i bambini a non passare troppo tempo proprio in queste posizioni, perché può portare dei seri problemi. Quindi abbiamo anticipato, avremmo parlato di bambini, e i nostri bambini che cosa dobbiamo insegnare? Allora, ai nostri bambini innanzitutto bisogna insegnare di non essere troppo schifiltosi a scuola, nel senso che se c'è lo stimolo bisogna assecondarlo, perché cosa succede, Nicoletta? Questi bambini non vogliono andare in bagno a scuola perché non è pulito, perché comunque non magari è casa, sì. Non è tutto. Se la portano a casa, a casa si mettono a giocare, quindi passa quello stimolo, perché noi abbiamo delle onde a livello proprio di motilità intestinale che non sono tantissime nelle 24 ore, bisogna cogliere l'attimo fuggente. Vedi? Per cui queste onde, cogli l'attimo fuggente. Cogli l'attimo fuggente, queste onde sono nell'ordine di 6-10 durante la giornata. E sono pure tante comunque. Sono tante, però per esempio la prima onda è importante quando ci svegliamo al mattino e facciamo colazione. Ed è per quello che la maggior parte delle persone riesce ad andare. Quindi, detto questo, i bambini tornano a casa, si mettono a giocare, rimandano al giorno successivo e cosa fanno? Fanno i fecalomi piccoli, che si sono quel intoppo che poi fa venire le ragadi, quindi dolore, quindi ulteriore difficoltà, quindi si crea un circolo vizioso per cui alla fine questi bambini diventano stitici, devono usare le perette e il rapporto diventa molto conflittuale, molto, doloroso molto. E conflittuale. Quindi educare fin da piccoli a proprio a non vergognarsi. Allora, 800 24 00 24, se avete problemi, se volete parlare del vostro intestino, come lo aiutate a a funzionare bene e che cosa vi dice quando si fa sentire? Dottoressa Salvioli, abbiamo detto che è sensibile, intelligente, ma anche un po' bizzarro. A volte il comportamento del nostro intestino cambia, perde la regolarità e sono proprio i cambiamenti delle sue abitudini a creare un po' di sospetto, o meglio a suggerirci di dedicare al nostro intestino un pochino più di attenzione. Ci aiuta a capire il confine tra normalità e malattia, tra fisiologico e patologico? Questo è un punto molto importante, perché quando una persona, diciamo, adulta, quindi il limite di età per noi è 50 anni, con una storia anche di familiari che hanno avuto dei problemi tumorali all'intestino, improvvisamente si trova ad avere delle abitudini alterate, quindi da prima che era normale, secondo la sua normalità, perché ripetiamo che è una questione soggettiva. Si trova ad andare poco, a calare di peso, a non sentirsi semmai ha una febbre, una febbricola tutti i giorni, un po' di sangue. Qui dobbiamo intervenire, quindi fare degli esami più approfonditi, quindi la colonscopia in primis. Perché? Perché bisogna escludere qualsiasi causa organica di questo cambiamento. Allora ci fermiamo con una puntualità quasi intestinale e andiamo a sentire chi è puntuale. Andiamo a sentire le informazioni. Cogliamo sul traffico. L'attimo. Ti è piaciuta anche a me. Sì. A tra poco. Cuore e denari. Quando sta bene lui, stiamo bene tutti. Deborah? Parole sante. E non è solo un modo di dire, sappiamo tutti per esperienza diretta quello che le ricerche dimostrano, e cioè che la salute del nostro intestino condiziona la salute e il benessere generale nel senso proprio pieno del termine. Ne stiamo parlando oggi con la dottoressa Salvioli, gastroenterologa di Humanitas. Vi invitiamo a intervenire in diretta. Parliamo di abitudini, ma anche di soggettività. Ci siamo soffermati sull'educazione, ecco, sulle indicazioni che dobbiamo dare ai nostri bambini per aiutarli ad avere un rapporto sano, naturale, con il loro intestino, con la funzionalità del loro intestino e quindi con la loro cacca. E non c'è niente di sporco, anche se ai bambini, quando c'è un'età in cui i bambini basta pronunciare la parola cacca e ridono come dei matti, sì, ma sì, è bello anche così. Abbiamo tanti ascoltatori che vogliono intervenire. Io vorrei chiedere però alla dottoressa Salvioli, prima di aprire i microfoni e poi fate voi, chi invece non riuscendo ad avere un intestino regolare o avendo la percezione che l'intestino è pigro, prova con la dieta, prova con l'acqua, bisogna bere acqua perché voi lo ripetete sempre, magari si fa ricorso ad alcuni prodotti, ad esempio i kiwi, l'acqua tiepida al mattino sembrano una mano santa, allora decide, dice qua ci vuole qualche cosa di più mirato, e allora iniziamo sempre con i rimedi naturali. Questo è il primo passo, prima di procedere poi per degli altri tipi di lassativi. Che cosa succede, dottoressa Salvioli? Che cosa dobbiamo sapere per evitare di fare passi falsi? Innanzitutto le fibre, le tanto citate fibre sono importantissime, non solo come quantità, e anche lì rientro nel soggettivo, ma come qualità. Ci sono delle fibre che richiamano più acqua e quindi questo facilitano il movimento. Noi possiamo iniziare dalla prima mattina, oltre all'integrazione con i kiwi, ad alcuni funzionano, ad altri no. Un altro rimedio molto buono è la pera matura o la crusca, comunque, oppure il porridge d'avena. Tante cose che si possono iniziare a fare al mattino, e poi non trascurare mai la quota di legumi. Se uno soffre di gonfiore, ci sono dei legumi già senza la cuticola, i cosiddetti decorticati, che si possono trovare negli supermercati più forniti e tutto. E l'acqua perché è un veicolo. Se io mangio tanta verdura senza acqua faccio l'effetto opposto. Io faccio sempre l'esempio ai pazienti che mi vengono a dire: sai, io vado, però sono piccole, dico, come le capre. Sì, signora, cosa mangiano le capre? Erba. Si è già data la risposta. Noi non siamo degli erbivori, se noi continuiamo a mangiare erba e non beviamo adeguatamente, già questo ci pone di fronte a un problema. Adeguatamente vuol dire 1,5-2 litri di acqua al giorno? Oppure? Di solito la velocità di assorbimento di acqua è un bicchiere ogni ora, e quindi copre praticamente 1,5 litri durante la giornata, poi con il tè ed altri liquidi si possono. Se anche questo non funziona, allora iniziamo con lo stile di vita. L'attività fisica è importantissimo perché Smuove. E poi, se anche questo non è sufficiente, perché semmai io ho un intestino pigro ereditato dalla mamma o ereditato da papà, allora lì intervengo con dei lassativi, però più naturali possibili, cosiddetti osmotici, cioè che fanno massa e quindi che viene trasportata. Sono da guardare con cautela quelli irritanti. Gli irritanti sono quelli che strizzano un po' l'intestino, e sono le erbe che, quando dicono i pazienti vado a prendere delle erbe naturali, sono tutte quelle a base di senna. Non sono banditi, però alla lunga portano a la totale assenza di risposta da parte dell'intestino, perché l'intestino, quindi, è un po' proprio una scelta dissennata. Bellissima. A proposito di cogliere l'attimo, abbiamo Angelo da Bergamo, Davide da Rimini, Gianluca da Modena, e abbiamo pochi minuti alla fine. Angelo, buongiorno, parta lei. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Grazie per le ragazze. Ho 77 anni e già da molti anni dopo ho la fortuna di avere l'orticello e i miei genitori era la verdura, insomma eravamo 5 o 6 fratelli, c'era sempre la verdura sul tavolo di tutti i tipi. E parlo di 30 anni fa, lì sotto i 40, soffrivo di emorroidi. Sì. E il medico mi ha detto di mangiare verdura cruda, ed come il radicchio, cicoria, è andata bene, insalata, Angelo? Ecco, e allora dopo ho avuto la fortuna di fare la mia casetta, l'orticello, 40 vedi? Anni che ce l'abbiamo. E vedi, poi... e Angelo ha risolto con l'orto. Angelo, ci mandi un cestino anche noi, perché due ravanelli, noi li mangiamo volentieri anche le verdure crude. Una buona scelta quella di Angelo, mi piace questa versione ottima. Bucolica. Gianluca da Modena, buongiorno. Signore, complimenti per la trasmissione. Grazie, complimenti a lei che ci segue. La risposta alla dottoressa prima sulle erbe del erboristeria. Comunque sì. Io sì, pur mangiando benissimo e bevendo almeno 3 litri d'acqua al giorno, però se non prendo la tisana io sto almeno una settimana senza andare in bagno. E vuol dire che lei ha un intestino comunque già, credo, da anni con delle difficoltà proprio di movimento e ha bisogno di questo tipo di aiuto. È chiaro che il movimento non è solo dell'intestino ma anche della parte bassa. Prima abbiamo parlato del pavimento pelvico, che alcune volte può presentare proprio un'alterazione del funzionamento, cioè in parole semplici, invece di rilassarsi si stringe e quindi impedisce la fuoriuscita. Quindi bisogna, ecco, nel suo caso la studierei con determinati esami per capire dov'è l'intoppo. Allora, intanto le voglio leggere, anzi leggelo tu dalla diretta Facebook, che cosa arriva per la dottoressa Salvioli, oltre che i messaggi, lo sapevamo già. Eh sì, bravi, devono guardare anche più attentamente. Complimenti alla dottoressa, preparata, delicata, ha rispetto, garbo, è una bella persona, una bellissima donna, perché qua bisogna sottolineare anche quando vanno sottolineati certi aspetti, ce le ha tutte, noi la porteremo più spesso. E c'è scritto e aggiunge, wow, e anche l'ha lasciata, è diventata anche un po' rossa. Ma noi andiamo a dove andiamo? A Davide, sì. Giusto, da Rimini. Sì, sì, buongiorno, sì. Eravamo lì a Rimini, Davide. Perché non è venuto buongiorno. A trovarci all'ITforum? Eravamo là, portavamo il suo referto, la dottoressa. E delle mie bande. E poi è dalle parti, perché anche la dottoressa. Mi sorprende molto che siano gli uomini a chiamare, quando invece è un disturbo che affligge. No, sentiamo. Ma sentiamo, non possiamo Davide. Più sentirlo, Davide deve scriverci. Comunque, insomma, intestino e testa viaggiano di pari passo, diceva. Sono no, proprio mi ha intrecciati. Sorpreso gli uomini. Vedi? Io dico sempre, un uomo è come 10 donne estitiche. Quando l'uomo è estitico è... Sono problemi. Grazie alla dottoressa Salvioli. Grazie a voi, noi torniamo domani. Domani, sì. Buona